4. Ascolta ancora i dialoghi A, Gemma e Daria, e B, Manuela e Lina, e unisci i nomi alle frasi. A. Gemma e Daria. Ehi! Avete già visto questa pubblicità? Quale? Questa! Mi sembra un'offerta molto conveniente! È una nuova compagnia telefonica. È praticamente gratuita. Ho visto la pubblicità anche in TV. Mi sembra molto interessante. Telefono spessissimo ai miei amici, a mia sorella, a Luigi. Ma non mi connetto mai a internet da casa. Qui a casa il collegamento a internet mi manca molto. Quando mi occorre scaricare la posta elettronica, uso il cellulare. Ma mi costa un occhio e... Lina? Non ti serve un lavoro part-time? Guarda che cosa c'è scritto qui. Ti interessa lavorare con noi? Puoi telefonare al numero verde. Un nostro operatore ti darà tutte le informazioni. Gli telefono subito. Speriamo bene. Allora, ci interessa spedire questo modulo? Manuela, che facciamo? B. Manuela e Lina. Allora, può interessarci spedire questo modulo? Manuela, che cosa ne pensi? Non vi pare troppo conveniente? Perché ci regalano tutto senza pagare niente? Hai ragione. Ci è già successo di spedire un modulo per ricevere degli omaggi e poi... Vi basta pensare ai detersivi per la lavatrice. Circa un anno fa, quando ero in Irlanda, avete compilato un modulo per riceverne alcuni in omaggio. Poi ne avete dovuti comprare tantissimi. Ne vedo ancora uno lì, dietro la porta della cucina. Vi ci sono voluti mesi per usarli tutti. Fortuna che ci sei tu, Manuela. Allora butto via subito quel volantino, altrimenti rimane in giro per mesi. In questa casa ci sono talmente tanti fogli, foglietti, riviste, che quasi non si vedono più i mobili. No, ti dispiace aspettare un momento. Puoi darmi il volantino? Voglio avere più informazioni su quel lavoro. Lascia stare, secondo me non è una buona idea.